Arte magica dileguata. Finché si crederà che l'arte magica sia cosa vera e operatrice di maraviglie, e che per essa si costringa il demonio a ubbidire, avranno bel predicare i buoni religiosi contro il peccato di superstizione e contro le sceleraggini e le follie dei maliardi. Molti ci saranno sempre che ci si proveranno e faranno i loro tentativi e di riuscirvi si immagineranno ancora. Per rismorbare così fatta peste, convien prima d'altro far ben intendere che così orribile peccato si commette in vano, che per tal via non si ottien mai nulla, che sono tutte ciance e chimere quelle che in tal proposito si raccontano. Scipione Maffei.